Trasmettiamo Proxy Bar. Proxy Bar. Proxy Bar. L'after hour sulle applicazioni e sui contenuti della rete che migliorano la qualità della vita. In studio Antonio Pavolini e Daniela Apollonio. Solo su Radio Imago. Buonasera a tutti da Antonio Pavolini, benvenuti a Proxy Bar, buonasera Daniela Apollonio. Buonasera Antonio. Come stai? Tutto bene, tranne la pioggia, sai che la pioggia... Non è stato facile arrivare qua anche ci oggi. Ci blocca, sì, Roma è un delirio. E domani sarà anche peggio con lo sciopero. Sì. Allora, questa sera parliamo di un argomento, come dire, un po' difficile. Ci addentriamo in un terreno, per quanto mi riguarda, abbastanza inesplorato, quello della New Media Art. L'idea di fare una puntata come questa mi è venuta 3 settimane fa, quando gironzolando in una di queste bellissime grandi librerie che ci sono a Roma mi sono imbattuto in uno di questi beaux livres, no? Questi libri illustrati della Taschen, molto belli, dedicato appunto al tema della New Media Art, cosa di cui, nei confronti della quale io ho un approccio molto istintivo, non avendo gli strumenti in realtà per capirla, però mi interessa il messaggio, mi interessano le contaminazioni con il mondo del web a cui in qualche misura apparteniamo. È comunque solo uno strumento, ognuno poi dà il significato che vuole utilizzando questa arte. Attenzione, sì, io non penso generalizziamola. Vedo che sei già polemica, sono passati soltanto 2 minuti, sei già pronta, anche se sei appena arrivata in studio. Benissimo, possiamo cominciare. The proliferation of computers into almost every facet of modern life has, of course, been of great interest to certain artists. Using computers themselves as the medium, artworks are made without the trappings of a linear structure, within which the observer becomes the sole live element, the sole control over an otherwise unrealized piece. Cyber art is more or less entirely hypertextual in this manner, and net art, that which is based within the internet, often deals with the very nature of HTML, casting doubt over the assumption that the internet is actually a palpable thing, rather than a series of codes being interpreted by a machine. Bene, dunque, credo che possiamo dare il benvenuto ad Alessandro Ludovico. Alessandro, sei in linea? Sì, buonasera a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Buonasera Alessandro. Allora, Alessandro Ludovico è direttore della rivista Neural. C'è anche un bellissimo sito che io ho cominciato a osservare nelle ultime settimane, neural.it, rivista che esiste dal 1993, ha fatto tantissime cose, è uno dei collaboratori di NetTime, ha creato il network di riviste mag.net e collabora anche con la grande esposizione di Documenta, che è uno dei punti di riferimento più importanti nell'arte contemporanea, e ha curato molti eventi. Non dimentichiamo che insegna anche. Sì, insegna, esatto. Insegna computer art all'Accademia delle Belle Arti di Carrara. Benvenuto. Grazie. Alessandro, stavo per dire benvenuto Ludovico, questo potrebbe anche succedere ancora nel corso della trasmissione, mi perdonerai. No, figurati, immagino quante volte è successo a chi ha un cognome che è anche un nome come me. Allora, normalmente qui a Proxy Bar siamo moderatamente competenti, quantomeno abbastanza competenti sul tema trattato da poter in qualche modo fare domande all'altezza dei nostri ospiti, però stasera mi sa che dovremo invece avvicinarci all'argomento della New Media Art un po' per gradi. Cominciamo quindi con una definizione: che cos'è la New Media Art? E qui già entriamo in un campo spinoso, perché arte dei nuovi media si potrebbe definire l'arte fatta o che in qualche maniera si relaziona anche concettualmente con quelli che sono stati definiti come nuovi media, e per nuovi media si intendono generalmente i media digitali, quindi web, i telefoni cellulari e un po' tutti i piccoli e grandi mezzi di comunicazione che appunto utilizzano le tecnologie digitali. ma qui già vorrei cominciare a confondere le acque dicendo che in realtà uno dei grossi limiti della new media art è proprio definirsi tale, in quanto quel new, i new media, ossia nuovi, ha resistito, era di gran spolvero nel 1900, a metà degli anni 90, insomma, con l'avvento del web e delle prime sperimentazioni, ma a distanza di 10 anni quel new inevitabilmente è diventato vecchio. Certo. Per cui si continua a parlare di new media art addirittura a distanza di 10 anni, si cominciano i primi tentativi di storicizzazione di queste cose, come il libro della Taschen che tu giustamente citavi prima, ma questa definizione si è rivelata anche probabilmente una sorta di gabbia entro cui questo importantissimo, secondo me, fenomeno artistico è stato un po' rinchiuso ed etichettato dal più vasto settore dell'arte contemporanea. Ecco, proprio su questo libro che io ho avuto modo di leggere in questi giorni, mi è sembrata subito evidente una importante area di intersezione tra due insiemi, quello della new media art da un lato, quello degli hacker, dell'activism dall'altro. Volevo chiederti come nasce questo incrocio, come si sta sviluppando. Ma in realtà è un'intersezione quasi naturale, visto che gli hacker, nel senso proprio del termine, non sono assolutamente quelli definiti dai telegiornali della sera, ossia lasciamo perdere i telegiornali perché in cerca di facili soldi, sì, o celebrità, ma sono coloro che in realtà dagli anni 70 ad oggi hanno portato un reale impeto innovativo sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista concettuale nell'ambito delle information technologies. E questa innovazione va assolutamente, per innovazione intendo sia innovazioni tecniche, ossia nuovi concetti che si sono sviluppati all'interno dell'informatica, se così vogliamo definire, sia innovazioni da un punto di vista sociale, cioè come le tecnologie possono essere sviluppate in maniera condivisa e comunitaria e come possono essere fruite alla stessa maniera. Scusami Alessandro, ti interrompo un attimo perché cerchiamo di dare una definizione a questo concetto di hacking, perché per noi, almeno noi tecnologici, l'hacker è colui che cerca di entrare nei computer. Invece tu stai dando una visione diversa a questa definizione. Ma sì, in realtà anche qui se facciamo riferimento alla letteratura che esula dal purtroppo diffusissimo senso comune su questo termine, la definizione è quella di chi riesce a ripensare la tecnologia fuori dagli standard, fuori dai manuali delle aziende, quindi a ripensarla da una sua propria prospettiva. In Italia, va ricordato, c'è ogni anno una riunione di hacker propriamente detti, ogni anno in una città diversa, che si chiama Hack Meeting, che raduna migliaia di hacker italiani, e una delle frasi più significative nel loro manifesto è che si può essere hacker anche senza saper usare il computer, nel senso che si comincia a ripensare la propria vita, la propria relazione con le tecnologie e con la società in una maniera che esula dai dettami del marketing, dell'industria e degli standard dettati da questa entità. Quindi, per rispondere alla domanda precedente, tutto ciò va assolutamente a braccetto con l'arte e con lo scarto di innovazione, di immaginazione che l'arte generalmente offre come spazio di libertà espressiva e di, allo stesso tempo, ripensamento della società. Ecco, sto annuendo da più di un minuto, mi è quasi venuto il torcicollo. Al di là di questa esperienza di activism, mi pare che un filo conduttore comunque di molti di questi new media artists sia quello della provocazione, se non dello shock, con l'obiettivo forse di rivelare dei lati oscuri, no, del mondo dei media, come la manipolazione delle coscienze, la propaganda occulta, l'uso prevalente delle leve emotive, no, per disabilitare quasi le nostre capacità razionali. È un tema di allarme, cioè io guardando un po' di queste opere ho colto una certa attenzione su tante cose di cui forse non ci stiamo accorgendo. Sì, anche qui più che di allarme, penso che sia più la ricerca di una maggiore coscienza dei meccanismi che subiamo, dei quali siamo parte ogni giorno nell'ambito della comunicazione, perché se parliamo di nuovi media parliamo ovviamente di comunicazione. E quindi ci sono per esempio tante opere che cercano di scardinare tutta la propaganda visiva che subiamo ogni giorno. Un'opera per esempio che non fa uso di computer, ma che di cui mi è particolarmente piaciuto parlare su Neural è stata un'opera di un artista austriaco che ha preso un pezzo di un quartiere autorizzato dalle autorità locali per 3 settimane e ha coperto tutte le insegne e i luoghi di quel quartiere, dando una visione diversa di quello spazio urbano, quindi ripensando, per rifarci alla definizione di hacker di prima, ma c'è certamente questa urgenza di essere coscienti dei meccanismi comunicativi che subiamo e dei quali siamo parte ogni giorno, quindi sia ad esempio degli strumenti che utilizziamo, Google tanto per citarne uno, io in particolare mi sono impelagato in una questione, in una sorta di opera con Google che mi ha portato via diverso tempo negli ultimi 2 anni, sia nell'essere coscienti che quando scriviamo un SMS abbiamo un numero limitato di caratteri che cerchiamo di sfruttare in una certa maniera, e questo condiziona il nostro linguaggio. Sì, sempre scorrendo un po' queste provocazioni segnalate sui vari siti, anche sul portale della rivista Neural e non Neural, come ho detto prima. In realtà, consentimi di dire, ho scoperto tardi che era praticamente trilingue, nel senso che come italiano pronunciavo Neural, gli anglosassoni pronunciavo Neural, addirittura i tedeschi hanno cominciato a pronunciare Neural, ma insomma. Tra queste provocazioni ce ne sono alcune veramente, come dire, che colpiscono, per esempio la messa in vendita del proprio corpo su eBay, poi una serie di butt-ad come degli artisti che non esistono, cioè che sono inventati a colpi di email marketing, e a questo punto è quasi l'inganno, no, l'opera d'arte. Oppure ci sono dei finti siti di persone che non ci sono, come questo livido mondo di Mouchette.org, l'adolescente che narra la sua vita, direi, intima, un po' torbida, eccetera. Chiaramente sollevando urgenze, se non proprio allarmi, sul tema della pedopornografia, insomma tutta una serie di temi che forse attraverso la new media art arrivano più direttamente alla nostra coscienza rispetto al mondo preconfezionato dei media tradizionali. Certo, ne potrei citare un'altra fatta dal gruppo di artisti italiani Franco Eva Mattes, conosciuti con una sequenza di 0e1.org, il loro dominio iniziale, che a Vienna organizzarono apparente presentazione in una delle piazze più importanti di un nuovo monumento che era stato affidato dalla città di Vienna alla Nike, con un enorme Schloss, il loro logo, che andava a campeggiare nella piazza, e facendo un'operazione su tutta la città con volantini e numeri verdi per sentire la reazione degli abitanti, che si sono spaccati, una buona parte protestava a gran voce per come questa piazza venisse deturpata da questo enorme logo, sia pure con estremo stile, e un'altra parte era addirittura interessata a questo esperimento. Ma io credo che con i nuovi media, anche rispetto agli esempi che tu portavi prima, ci sono due delle questioni più calde che si pongono. Sono: una, il fatto che l'informazione è smaterializzata, non c'è una fisicità dell'informazione, e questo comporta il fatto che l'informazione sia infinitamente più manipolabile. E l'altra fortissima è la questione dell'identità, ossia il creare delle identità che sono costruite a tavolino, in qualche maniera artefatte, il che apre ovviamente infinite possibilità creative dal punto di vista artistico. C'è una lunga tradizione nell'arte, nella creazione di identità artificiali. L'identità è un'altra delle questioni aperte, cioè quando ricevo un'email nella mia casella, nella mia inbox di posta elettronica, non è difficile essere al 100% sicuro che sia proprio quella persona che mi sta scrivendo piuttosto che una qualsiasi altra. La creazione di identità artificiali mette in discussione il normale, l'acquisito tipo di interazione sociale a cui noi siamo abituati. Noi siamo abituati istintivamente a interazioni fisiche con altre persone. Già quando sono mediate da un telefono, come stiamo facendo noi in questo momento, cominciano ad essere più labili. Quando poi sono completamente astratte, non c'è nemmeno più la calligrafia, ma ci sono i caratteri di un computer, questo dà la possibilità di inventarsi chissà quante identità e quindi avere di innescare dubbi sulla realtà di certe informazioni. Giusto per fare un esempio diretto, io ho scritto uno studio sullo spam 2 anni fa, pensate semplicemente a tutti i nomi di persone assolutamente inesistenti che firmano tutta la quantità di spam che arriva a tutti noi ogni giorno. Sì, beh, sono diventato un esperto di banche nigeriane negli ultimi mesi. Bene, Daniela, credo che stia venendo una bella puntata. Facciamo una pausa, ci sentiamo tra poco. Bene, abbiamo sentito un minuto, un estratto di un'opera, di un collettivo di sperimentazione audiovisiva che si chiama Otolab, operante a Milano. Vogliamo dare spazio anche agli artisti italiani. Questo è un collettivo interessante, che formato da elementi che provengono da ambienti artistici e professionali molto, molto diversi, però con comuni affinità estetiche, così leggiamo sul loro bio, sulla loro biografia. Progetti che si sviluppano attraverso lavoro di laboratorio, seminari, live set, confronti continui tra i 15 componenti del collettivo, si procede per sostituzione e ci si concentra sull'idea forte. Io invito comunque tutti a dare un'occhiata ai vari link cui si può facilmente accedere dal portale della rivista Neural.it, proprio perché si entra in un mondo che apre letteralmente la mente. Ecco, ho visto che ci sono parecchi di questi new media artists che sembrano naturalmente aderire a collettivi. Come mai questa forma di aggregazione quasi spontanea? Anche qui secondo me ci sono un paio di questioni importanti e di peso. Una è che la complessità delle opere di new media art generalmente richiedono un numero più ampio di persone. Non stiamo parlando di una tela da impressionare con dei colori o di una scultura da appunto scolpire in maniera raffinata ma con delle attitudini artigianali. Stiamo parlando di opere che generalmente richiedono diverse competenze. Nel caso stesso degli Otolab, per esempio, fanno un discorso anche qui molto raffinato e interessante sulla relazione fra audio e video, in particolare con gli strumenti digitali, riflettendo anche sul tipo degli strumenti digitali che utilizzano e sulle loro possibilità. Le competenze, le diverse competenze sulla manipolazione dell'audio e su quella del video, nel loro caso si integrano molto bene in un collettivo ampio. E quindi da un lato c'è una complessità a cui si fa fronte attraverso una istintiva e gioiosa ripartizione di compiti, e quindi ognuno condivide le sue competenze. E l'altra questione importante, secondo me, è la necessità, da un altro punto di vista, di sviluppare concetti più complessi di quello del singolo artista, è il superamento di un concetto ampiamente buttato a mare da tutta la tradizione del DJing, del turntablism, del VJing e di tutto il resto, che è quello dell'artista geniale che da solo e unico interpreta il mondo in una maniera innovativa che tutti in qualche maniera adorano. Quindi i collettivi, il fatto che ci siano collettivi o comunque gruppi di diverse persone che sviluppano queste opere, da un lato è una necessità, dall'altro è una innovazione anche in questo senso, cioè permette lo sviluppo di concetti più complessi in cui ciascuno dà del suo e i risultati a volte sono molto interessanti. Ecco, quello che mi dici sui collettivi mi aiuta a introdurre un altro, diciamo, sottotema proprio legato alla condivisione, no? Di cui hai parlato prima. Dopo anni di arte anche contemporanea che è sembrata quasi ossessionata dal tema della proprietà intellettuale, con la new media art, in particolare con la net art, si assiste quasi a un rifiuto del concetto di diritto d'autore, sostituito da ossessioni quasi opposte come l'appropriazione, la condivisione, la rimediazione. Molte opere di new media art non sono altro poi che la trasformazione rivendicata come tale di un'opera d'arte precedente. E volevo chiederti come si approda a questa pratica, cosa significa rispetto al tema della proprietà intellettuale nella rete, più largamente inteso, che ossessiona magari molto spesso noi nella nostra discussione qui a Proxy Bar. Mi pungi sul vivo, nel senso che sarei tentato di sono combattuto, perché c'è un progetto che tratta proprio di queste cose di cui sono stato parte, ma non vorrei fare troppo. Beh, casualmente sei tu l'ospite della trasmissione. Mi piacerebbe più parlare di progetti di altre persone. Comunque, da un lato il diritto d'autore va completamente ripensato a livello istituzionale con la presenza delle tecnologie digitali. Uno dei fondamenti delle tecnologie digitali è che permettono di replicare le informazioni contenute nelle loro memorie in maniera pressoché identica e in maniera teoricamente infinita. C'è una lunga tradizione di superamento a pie pari delle leggi sulla protezione del diritto d'autore. Insomma, penso che non penso di bestemmiare o di dire cose oscene dicendo che ci sono milioni di utenti anche in Italia che utilizzano reti paritarie per scambiarsi contenuti protetti dal diritto d'autore senza fini di lucro. Cioè, questa è una cosa importante. Il discorso del fair use, esattamente. Questa condivisione è nell'essenza stessa della rete, cioè quando si crea una rete nel caso di internet infrastrutturale, cioè un network fatto di nodi che veicolano informazioni, la condivisione di queste informazioni è connaturata al concetto di rete stessa. Quando è stata sviluppata internet hanno pensato a come condividere determinate informazioni in più luoghi diversi, questa era la rete, è una rete informatica. Di lì a condividere contenuti che teoricamente sono protetti dal diritto d'autore, il passo è brevissimo e lo si è visto negli ultimi 10 anni. Ora, questo crea delle difficoltà e dei paradossi, perché questa innovazione tecnologica è stata molto più veloce di quella legale, ossia tutti i paesi occidentali hanno delle legislazioni sul diritto d'autore molto rigide. E anche qui, insomma, sarebbe lungo fare una storia. Sì, ma forse faremo anche una puntata, breve storia del diritto d'autore. Faremo una puntata solo su questo, perché infatti, vedo che è un tema allora, che infiamma tutte le persone che invitiamo. Vorrei raccontarvi solo di questo progetto, ma spero in 3 minuti netti, che ho sviluppato non a caso in un collettivo con 2 artisti di Vienna che si chiamano Huber Morgan e un altro artista italiano di Torino che si chiama Paolo Cirio. E qui va il discorso delle competenze diverse. Io faccio difficoltà a reputarmi artista, so scrivere, almeno reputo di saperlo fare, quindi faccio il teorico del gruppo. Questo progetto si chiama Amazon Noir, sì. Ha come obiettivo Amazon.com, la più grande libreria mondiale, si è sviluppato su un hacking di Amazon, ossia per chi usa Amazon.com c'è una possibilità che si chiama Search Inside the Book, ossia è possibile ricercare, come si fa con Google, all'interno di tutto il testo di un determinato libro. Non si può fare per tutti i libri, ma per alcune centinaia di migliaia di libri è possibile. Per cui ho l'ultimo romanzo, faccio per dire, di Stephen King. Sono curioso di vedere se all'interno di questo romanzo c'è una determinata parola, una combinazione di parole. Temo d'aver capito dove volete arrivare. E da questa ricerca si ottengono dei piccoli pezzi di libro, delle frasi direttamente dal libro. Quello che noi abbiamo fatto è stato stressare questo meccanismo facendo con uno specifico software dalle 3.000 alle 4.000 ricerche automatiche fino a ottenere tutto il testo del libro, che veniva automaticamente poi salvato come un unico file. Quindi in qualche maniera abbiamo rubato una serie di libri dal sito di Amazon. Sì, e sottolineando come la tecnologia in sé supera quei limiti legali che si vorrebbero imporre alla tecnologia, fondamentalmente. Sì. Come opera artistica abbiamo poi deciso di mettere questa storia in una classica narrativa noir, per questo Amazon Noir, anche perché parlavamo di libri. Per cui noi eravamo i cattivi, Amazon era il buono, che alla fine vince sempre, e entrambi lottavamo per la tensione della femme fatale, come succede nell'alternativa noir, che in questo caso erano i media. Sì, mi è un po' difficile pensare a Jeff Bezos come il buono in questa circostanza, ma non importa. La vittima. Il marketing di Amazon però mira, a come il marketing qualsiasi grande corporation online, mira assolutamente a essere simpatico, affabile, sì, piacevole. Indubbiamente. E, per concludere, quello che abbiamo fatto successivamente è stato fare una installazione, dove abbiamo preso uno dei libri che avevamo portato via in questa maniera ad Amazon, a marketing di Amazon, ed è un libro particolare, è un libro che è un classico della controcultura americana degli anni 70, in italiano si chiama Ruba questo libro, era un libro di Abby Hoffman, e l'abbiamo ristampato in maniera digitale, ma è del tutto simile al libro originario, eccezione fatta per immagini, ovviamente attraverso questa tool di ricerca di Amazon non si ottengono le immagini ma solo il testo. Abbiamo ristampato identico, l'abbiamo messo in questa installazione dentro un'incubatrice per bimbi, per capirsi. E finisco dicendo perché, dov'è il senso di questa operazione. Abbiamo messo dentro questa incubatrice perché per noi questo libro, che è stato rubato in maniera digitale e reincorporato in maniera fisica, rappresenta il figlio illegittimo e prematuro della relazione fra Amazon e il diritto d'autore. È illegittimo, non dovrei nemmeno spiegarlo, perché ovviamente abbiamo fatto un crimine doppio, l'abbiamo rubato da Amazon e l'abbiamo ristampato senza nessun tipo di autorizzazione, adesso quel libro è protetto dal diritto d'autore. Ed è prematuro perché la relazione fra un gigante della vendita editoriale come Amazon e il diritto d'autore è ancora molto prematura rispetto a una sua definizione compiuta. Bene, bene, io come dire, sono contento che tu sia il teorico, così vuol dire che siamo contenti che sei ancora libero dopo tutti questi illeciti. No, ma mi pare di aver capito che non abbiano commesso nessun illecito, perché se ci no, non credo. Adesso, ma diciamo che l'illecito ci sarebbe, ma anche qui non c'è questa è un'altra questione. Molte opere d'arte di cosiddetta new media art vanno ad agire su quel sottile, su quel filo pericoloso che divide l'illecito dal lecito online, ma l'opera sta proprio nel giocare su questo confine, senza ovviamente senza sconfinare nella pratica legale, ma cercando di mettere in evidenza quelli che sono i paradossi. Certo, un po' come faceva Houdini giocando, scherzando col fuoco. Io vorrei chiudere tornando per un attimo nel mondo dell'arte offline, sono stato in perfetta solitudine, anche perché era forse l'unico modo per farlo, al Palexpo durante la splendida, meravigliosa Notte Bianca, in cui abbiamo assistito a una serie di deliranti installazioni interattive come il cubo dei Metan Kin, i ritratti di Man Man, tutte queste installazioni che richiedevano poi la continua partecipazione del pubblico che creavano insieme a loro l'opera d'arte. La sensazione è che la New Media Art stia contaminando in modo sempre più prolifico anche l'arte contemporanea offline. Forse magari presto avremo anche il canale di ritorno. Quali sono i rapporti, diciamo, tra i due mondi? Ahi noi, ancora problematici. Ecco. A mio avviso, nel senso che dopo 10 anni l'arte New Media è ancora un ghetto nell'arte contemporanea, un po' com'era per la video arte all'inizio degli anni 80. Sì, sì, sì. La video arte ci ha messo 30 anni per essere ammessa con tutti gli onori e gli oneri all'interno dell'arte contemporanea, e credo anche per l'arte nuovi media ci sia un problema simile. Ci sono due problemi oggettivi che personalmente, chiaramente è un'opinione assolutamente opinabile, vedo. Uno è che l'arte nuovi media non immediatamente crea l'oggetto che è il feticcio del mercato dell'arte, l'oggetto che viene venduto, l'oggetto che viene esposto, ma è molto più simile a quella che viene a quel settore dell'arte che è la performance art, cioè ad un'azione che in qualche maniera viene documentata, ma non c'è l'oggetto unico, il quadro, la scultura, l'oggetto esposto in e di cosa maniera. Campate? E si campa il generalmente di Daniela. È un'ottima domanda. Io chiaramente faccio diverse cose per riuscire a sbarcare lunario, come avete giustamente ricordato elencato, all'inizio. Sì. Però in generale gli artisti che vogliono fare solo gli artisti non fanno non navigano sicuramente nell'oro. Generalmente, come in altri settori dell'arte contemporanea, cercano di ottenere fondi dalle istituzioni, e qui il caso in Italia è tragico, di solito si ottengono molto più facilmente da istituzioni estere per sviluppare delle opere. Fanno anche produzioni di oggetti, calcando un po' la mano, cercando poi delle gallerie che li vendano. Ma non è semplice, come già in generale la vita artista non è semplice, ma nel campo della new media è ancora più complicata. Generalmente gli artisti fanno anche altre attività collaterali per campare in qualche maniera. Avete ricordato Iotola prima, sì. Loro fanno tutta una serie di serate perché hanno la possibilità e la forza di fare degli show appaganti. Sì, l'altra, c'è anche John Klima, che è uno sviluppatore, no? Tantissimi new media arte sono sviluppatori, programmatori che attraverso l'arte rivelano la fredda bellezza di un codice di programmazione magari manifestato in forme inconsuete, no? Come questo Free Linux Radio, che è è un'opera d'arte assolutamente non fruibile. Ma è free, torniamo a Bomba. No, ma ti spiego. Allora, Free Linux Radio che cos'è? Praticamente credo di aver capito che si tratti di una specie di altoparlante che per non so quanti mesi ha declamato tutte le righe di codice del sistema. Due anni e mezzo, esatto, di tutte le righe di codice di Linux, un inno parlato alla libertà, alla libertà espressa da un sistema operativo open source come Linux. Non poteva che venire da uno sviluppatore. Sì, sì, da una coda di Radio Quelia. Sì, ma oggettivamente, se le contestualizziamo nel momento in cui succedono queste cose, hanno questo tipo di non facile fruizione, ma se pensate alla merda d'artista o all'orinatoio di Duchamp, sì, quando sono stati tirati fuori, ora non voglio dire che sono la stessa cosa, voglio dire che il tipo di fruibilità in un determinato momento storico non è immediato, generalmente lo si apprezza con un minimo di freddezza anni dopo, a meno che non si è immersi o comunque coinvolti anche emotivamente in quella, chiamiamola, scena, e allora si hanno anche gli strumenti e la passione per riuscire a decodificare. E questo, volevo finire con la domanda precedente, è l'altro limite rispetto alla relazione con l'arte contemporanea, e cioè passatemela questa cosa, l'età dei curatori e delle persone che stanno nelle istituzioni, che generalmente non sono nemmeno la generazione come la mia che da ragazzini ha visto i Walkman, ma sono quella ancora prima, certo. E quindi hanno un problema da un lato di comprensione tecnica e quindi ancora peggio poi di comprensione di un'opera come quella che tu citavi prima. Beh, allora potremmo dire per chiudere che il tempo sarà galantuomo, con un'affermazione lugubre in questo caso. Noi ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato a Proxy Bar, sicuramente elevandola su vette finora mai raggiunte, perché veramente abbiamo esplorato l'inesplorabile, anche il non fruibile. E ti ringraziamo ancora e diamo ancora l'indirizzo del sito della tua rivista, neural.it. Ottima, grazie a voi. Ottima porta d'ingresso al mondo della New Media Art. A presto, grazie a voi per questa piacevole puntata. Ciao. Arrivederci. Mamma diceva sempre che Radio Imago è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Beh, allora chissà, forse il tempo è stato galantuomo anche con la Merd Artist. Ogni tanto qualcuno va a guardare dentro il barattolo per vedere come sta. E io mi sento tanto come i curatori a questo punto, scusami, cioè io non la capisco, perdonami, ma non la capisco. Sarò antica, sarò anche nata con i Walkman, ma non è arte. Beh, non ti buttare giù, mica sei nata con i Walkman tu. Va bene, dunque, cioè, a proposito di opere non fruibili, io stavo guardando il sito dei coniugi, degli ineffabili coniugi Mattes, Eva e Franco. Oddio, non sono sicuro, non sono sicuro se sono coniugi, credo di sì, magari sono fratello e sorella, boh, non so, su questo devo documentarmi. Sai cosa hanno fatto? Hanno messo in piedi una cosa che si chiama life sharing, e questo l'hanno fatto non adesso, dal 2001 al 2003. Tutto quello che circolava sui loro computer è stato scrutabile liberamente in rete. Poi hanno fatto un altro progetto ancora più invasivo sul tema della privacy, che si chiama, guarda caso, Vopos. Ma i Vopos erano i poliziotti del muro di Berlino. Si sono applicati addosso dei GPS in modo che tutti potessero sapere sempre il luogo. Sì, ho capito, mi fai una faccia affranta, ho capito che non ti piace la New Media. No, assolutamente, però guarda le influenze che esistono con la tecnologia. Adesso ci sono dei portali dove tu ti iscrivi per essere seguito dai tuoi amici, sì. Cioè, è uguale. Sì, è più o meno la stessa, però loro nel 2001, loro sono i pionieri. Stavo pettinando le bambole, sì. Ma allora, senti, oggi abbiamo ben due guru, perché colleghi di Intruders TV sono inarrestabili, riescono a raccogliere testimonianze ovunque. Per esempio adesso hanno incontrato Luca Conti, il celebre blogger, autore di pandemia.info. Non voglio dire che è uno dei blog più letti, se non lui si arrabbia. Diciamo che è uno dei blog che innescano più conversazioni intelligenti, ecco, secondo me. Abbiamo sentito un fratello qualche giorno fa qui da noi. Cristian Conti, sai che non lo so se è il fratello. Ah, ecco. Vedi, a proposito, dobbiamo un po' documentarci sulle parentele. Sì. Dunque, Luca Conti ha fatto uno studio molto interessante sulla presenza online dei maggiori quotidiani italiani e sulla adozione delle tecnologie, diciamo così, in spirito, in sintonia con lo spirito del web 2.0. Direi di ascoltarlo perché è interessante. Guru Meditation. Guru Meditation. Guru Meditation. Una ricerca che ho effettuato sui siti web dei primi 50 giornali italiani per diffusione di copie. Avevo fatto questo studio nel 2006, l'organizzazione l'aveva notato, mi aveva invitato a parlarne. E quindi per l'occasione ho rinnovato i dati al 2007 e questa sarà la prima occasione pubblica in cui verranno presentati. Di fatto è l'applicazione di una, della metodologia di un altro studio americano condotto dal Giddings Group, che è una grossa società di consulenza e analizza i media, e ha sottoposto i siti dei 100 giornali, i primi 100 giornali americani al test del web 2.0, ovvero alla presenza o meno di servizi che possono facilitare l'interazione e la partecipazione del lettore, dai commenti agli articoli, alla presenza di blog, piuttosto che il sistema di bookmarking, notizie, video, podcast e disponibilità di feed RSS. I giornali italiani dal 2006 al 2007 hanno fatto grandi passi avanti, anche se rispetto agli Stati Uniti siamo ancora molto indietro. Su 50 siti indagati, 30 oggi hanno feed RSS, 18 hanno funzionalità video e 15 permettono di commentare gli articoli, quando l'anno scorso non ce n'era nessuno che lo permetteva. I blog sono molto cresciuti, sono passati da 8 siti che ne disponevano a 22. E i dati più bassi sono relativi al mobile, solo 6 siti hanno una versione per dispositivo mobile, nonostante in Italia i cellulari siano ampiamente diffusi, e soltanto 4 rispondono di podcast con un miglioramento minimo, perché l'anno scorso erano 3. Secondo me questo cambiamento è un po' una decisione che viene dalla direzione dei giornali, ma non perché c'è piena consapevolezza che questo significhi avere un rapporto nuovo con il lettore, ma perché è una tendenza inarrestabile che viene dall'estero. Come molti cambiamenti che avvengono in Italia, quando ci sono ondate favorevoli a livello internazionale, poi queste ondate arrivano in Europa e a cascata arrivano in Italia. Il gruppo Espresso è quello che ha sempre creduto di più rispetto a internet come canale di distribuzione dei propri contenuti. Repubblica è stato uno dei primi siti a avere, uno dei primi giornali a avere un sito di una certa rilevanza, ed è sempre il gruppo Espresso che ha introdotto la maggiore innovazione dal 2007-2007, che è costituita da una nuova piattaforma utilizzata da tutti i giornali locali e regionali del gruppo Espresso, che sono circa 12. E con questa nuova piattaforma gli articoli prodotti per l'online o distribuiti online hanno la possibilità di essere commentati. Il lettore che si registra, oltre a, quindi, a poter commentare gli articoli, può caricare fotografie e video, e in prospettiva verrà aperto anche un social network, una funzione che non è stata ancora attivata, ma la stessa piattaforma è utilizzata da Radio DJ, e so che nei prossimi giorni sarà la prima testata del gruppo Espresso che lancerà questa funzione. Social network è una funzione nuova anche a livello internazionale. USA Today è stato il primo grande giornale americano ad aver introdotto la possibilità di avere un profilo del lettore dove vengono raccolti tutti i suoi contributi e dove anche gli altri lettori possono interagire. nello studio americano solo 4 giornali su 100 hanno queste funzionalità, in Italia c'è solo un giornale che usa social network, che è la Gazzetta dello Sport. Io credo diventeranno sempre più multimediali. Il gruppo Espresso è un po' quello che ha fatto scuola, anche il Corriere.it lo sta seguendo, il Sole 24 Ore nella nuova versione del sito ha introdotto delle funzionalità in questa direzione. Certo, sia necessario sempre un po' qualcuno che faccia da lepre, da apripista. Gli investimenti online stanno crescendo e questa è, credo, la principale motivazione che spinge gli editori ad investire di più sul web. Poi, ovviamente ci sono editori che hanno più mezzi e, oltre a averlo capito, hanno anche le risorse per investire in questa direzione, e altri editori fanno fatica probabilmente oggi a sopravvivere con la sola versione cartacea, perché hanno dimensioni veramente piccole. In Italia abbiamo una bassissima lettura di quotidiani, vendiamo circa 100 copie per 1000 abitanti di quotidiani, quando in Germania sono 3 volte tanto, e ogni giorno 42 italiani su 100 leggono un giornale, quando in Germania sono 70. Questo fa sì che le risorse dei piccoli giornali siano così limitate da non permettere di avere una redazione online e una produzione online. Infatti la cosa triste che emerge da questo studio è che i giornali più piccoli, ad eccezione di quelli del gruppo Espresso, hanno siti web che sono rimasti inalterati rispetto a un anno fa, e l'unica possibilità che è data al lettore è di abbonarsi alla versione cartacea in formato digitale a pagamento, senza nessun altro servizio. Abbiamo ancora dei guru da farvi sentire, registrati sempre, intervistati sempre da Livia Iacolare per Intruders TV. Parliamo con Fabio De Bernardi e Matteo Canzi Blanc, che sono due italiani che hanno deciso di stabilirsi a Londra per realizzare un progetto imprenditoriale, e cioè una piattaforma di shopping online che fornisse informazioni pubblicitarie in base ai gusti degli utenti, una cosa di cui si favoleggia da anni e che loro stanno realizzando concretamente. Il progetto si chiama Widow. Benvenuti su Intruders TV Italia, siamo a Londra, all'Open Coffee, e sono in compagnia di Fabio De Bernardi e Matteo Canzi Blanc di Widow. Ciao ragazzi. Ciao. I ragazzi ragazzi, parlateci un po' del vostro progetto in 30 secondi. Che cos'è Edo? Edo è quello che possiamo chiamare tecnicamente l'aspetto del gioco, per come l'aspetto con la musica madre di Udai e gusto, perché proponiamo una formazione commerciale e relazione a quello che ci interessa. Su Lastfm puoi selezionare rock o jazz e loro ti offrono musica nuova solamente relativa a quei pezzi. Quello stesso quello che accade in vita, puoi selezionare viaggi, fighting o di pregiati, che siamo lì degli articoli di riflessione di qualsiasi cosa comunque corrisponde ai tuoi interessi. La maggior parte dei casi sono cose relative a che puoi comprare, vedere, acquistare, questo sul prezzo. Quindi noi abbiamo come obiettivo virtuale il sapore dei contenuti, ma comunque l'atto finale può anche essere rimandato su un sito terzo che poi venderti o seguire qualcuno. E come siete venuti a capo di questa idea? Come è nata? Ma diciamo che l'idea è nata chiaramente da un tempo di diverso, che ha a che fare con un pagamento di conferenza, è abbastanza futurista e fin troppo ambizioso da realizzare con due ragazzi più giovani come noi. Sarebbe un modo di questa idea che esiste prima, era comunque basata su pubblicità personalizzata. A chi abbiamo deciso poi di portare avanti questa seconda idea, di trasformare tante cose su internet dove l'informazione generata sull'utente e lo scambio di informazioni commerciali fosse la generatrice di utili per l'idea. Il motivo per cui, nonostante sia italiano chiaramente, ci troviamo a Londra da quasi un anno, è che il mercato qua veramente con le dimensioni e sono tantissimi di networking, come questo che c'è ancora, che ci hanno dato veramente tanto. E d'altra parte anche la disponibilità di capitali è diversa. Definiamola così. Parlando di capitali, che è quello che mi interessa di più, qual è il vostro business model in questo momento? Il nostro business model è abbastanza chiaro di linea, nel senso che, come diceva Matteo, tutto o quasi tutto quello che facciamo vedere ai nostri clienti è un'informazione di tipo commerciale. Generalmente si tratta di libri gialli. Tutto l'utente andrà a vedere potrebbe essere probabilmente un sito di commercio di libri, il pubblico di quel libro che deve promuovere un nuovo libro o quant'altro. Il blog stesso diventa la sua passione, quello che fa accesso ai libri, quello che interessa non andare a comprare, quindi ora si trova all'interno del video una recensione e si comincia a creare gente sul blog. Questo fa sì appunto che una grossa percentuale di contenuti che noi mostriamo siano contenuti dove dietro c'è qualcuno che paga per click o per base che faranno, pagano per questo messaggio. E so che il video è ancora in fase di beta testing, quando pensate di lanciare il sito? Allora, tu se prendi le domande che fare con dei developer, non puoi mai scrivere la faccia. Diciamo che adesso sono abbastanza vicini. Potrebbe essere il lancio di una beta privata o definire in 3-4 secondi. Mi sento di dire 3-4 secondi. Sicuramente entro la metà di novembre. Daniele, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro lavoro e grazie per essere stati con noi sotto questo. Grazie. I nostri jingle sono belli, ma anche il signore che si è inventato il jingle di Intruders TV mi piacerebbe conoscerlo, eh? Sì, In 3 secondi ha reso tutto. Bene, insomma, sconsolato un po' Luca Conti, no? Nel descrivere l'arretratezza di molti giornali italiani come strategia web. E invece incoraggiante quello che fanno, no? Gli italiani all'estero si fanno sempre all'estero, comunque. Sì, all'estero, no, da noi che siamo qui non si muove, non si batte chiodo, come si dice. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata abbiamo sforato addirittura le 20. Guarda le chiave che sono, stavolta prendere... non è colpa mia. No, prenderò qualche mattarellata, come è giusto che sia. Noi... Nessuna anticipazione per la prossima volta, sarà una puntata speciale, sì. Si parlerà di Web 2.0, incontrerò il King of the Web 2.0. Ma quella è tra due settimane. Tra due settimane. Prima ce n'è un'altra dove si parlerà di buzz marketing, vabbè lo possiamo dire, parliamo di buzz marketing. Ok. Parliamo di buzz marketing. Buonasera a tutti, a giovedì prossimo. A presto. Radio Imago ha presentato Proxy Bar di Antonio Pavolini e Daniela Apollonio.